Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nella storia del calcio esistono squadre leggendarie, con pagine che hanno acceso l'entusiasmo dei propri tifosi, ma anche scaldato i cuori di tutti gli appassionati. 11 indimenticabili, fatti di campioni immortali che molto spesso possiedono storie personali affascinanti e rocambolesche che ne accrescono il mito. Dalla grande Olanda del calcio totale alla grande Inter, dal Milan di Sacchi al Real di Di Stefano, dal mitico Torino fino al Barcellona di Guardiola e Messi, sono decine i team che hanno un posto speciale nella storia del calcio. Ma la squadra che più di ogni altra è in grado di accendere la fantasia dei tifosi è certamente il grande Brasile, tre volte campione del mondo tra il 1958 e il 1970. Se una squadra in 12 anni vince 3 mondiali su 4, non ci sono dubbi sul fatto che in quel preciso momento storico quella scuola calcistica possiede una supremazia assoluta sul resto del mondo. Oggi vi racconteremo la storia di quel Brasile e in particolare dei due uomini che, trovatisi per un gioco del destino l'uno sulla strada dell'altro, hanno reso immortale quella straordinaria nazionale. La storia di quella nazionale parte da lontano, dal 1950, da una dolorosa premessa. Primo campionato del mondo dopo la tragedia della guerra, si gioca in Brasile. Il calcio qui è già una questione di cuore e di orgoglio, e possiamo dire di vita o di morte. Come spesso accade nei paesi decisamente poveri, lo sport è anche una forma di riscatto collettivo. Così, in quel mondiale sui campi di casa, tutta una nazione si stringe intorno ai propri eroi, a fenomeni come Augusto, Danilo, Jair, Friaca, Zizinho. 16 luglio 1959, Stadio Maracanã, Rio de Janeiro. 170.000 spettatori assistono all'incontro decisivo Brasile-Uruguay. Tecnicamente non è una finale, c'è un girone all'italiana a 4. È l'ultima partita però e le due squadre hanno vinto le gare precedenti. Praticamente uno spareggio. Solo che il Brasile ha distrutto gli avversari nei primi due match segnando 13 gol in due partite, mentre l'Uruguay ha fatto molta, moltissima fatica. Quindi alla nazionale di casa basterebbe un pareggio. La ricerca del pari, però, non è cosa da calcio brasileiro. Friaca e compagni non hanno la tattica nel loro DNA e attaccano dal primo minuto. Dovete sapere che il Brasile gioca con una divisa interamente bianca, che è quella ufficiale fin dalla nascita della nazionale stessa. In campo, quel pomeriggio, le maglie bianche dei brasiliani vanno talmente veloci che sembrano il doppio di quelle azzurre dell'Uruguay, almeno per il primo tempo. Il Brasile però segna un solo gol e gli uruguaggi si difendono ordinatamente. E nel secondo tempo entrano con un approccio completamente diverso. Schiaffino e Giglia prendono in mano la celeste. Mentre i 170.000 sugli spalti progressivamente ammutoliscono, l'Uruguay mette a segno un 1-2 mortale. Sarebbe bastato un pareggio. Invece il Brasile viene punito per la propria sufficienza e incredibilmente perde. Al fischio finale si scatena la tragedia collettiva. Jules Rimet, all'epoca presidente della FIFA e papà del campionato del mondo, ricorderà così anni dopo il drammatico momento del fischio finale dal suo punto di vista. Era stato tutto previsto, tranne la vittoria dell'Uruguay. Al termine della partita io avrei dovuto consegnare la coppa al capitano della squadra campione. Un imponente guardia d'onore si sarebbe dovuto formare dal tunnel al centro del campo, dove mi avrebbe atteso il capitano della squadra campione, naturalmente il Brasile. Preparai il mio discorso in portoghese e giunsi presso gli spogliatoi pochi minuti prima della fine della partita. Stavano pareggiando 1-1 e il pareggio premiava la squadra di casa. Ma ecco che, mentre camminavo per i corridoi, ad un certo punto il tifo infernale si interruppe. Di colpo, come se un interruttore fosse stato spento. È impressionante solo anche ricordarlo. Alla salita del tunnel, un desolante silenzio dominava l'immenso stadio. Né guardia d'onore, né inno nazionale, né discorso, né solenne premiazione. Mi ritrovai da solo, con la coppa in braccio e senza sapere cosa fare. Nella confusione scorsi il capitano dell'Uruguay, Obdulio Varela, e quasi di nascosto, stringendogli la mano, gli consegnai la statuetta d'oro e me ne andai, senza riuscire a dirgli neanche una parola di congratulazioni per la sua squadra. L'Uruguay strappa la coppa ai padroni di casa, scatenando una tragedia collettiva. Vengono indetti 2 giorni di lutto nazionale, si contano suicidi, stati depressivi diffusi. Chi aveva scommesso tutto sulla vittoria del Brasile, spesso anche la casa, si scopre sul lastrico. Un'intera nazione è ferita nell'anima, nel profondo. Molti giornali il giorno dopo escono con titoli impressionanti. Il maggior quotidiano nazionale titola addirittura «La nostra Hiroshima». Tra i tanti, tantissimi brasiliani sconvolti da quell'evento, ci sono 2 ragazzini, in luoghi diversi del Brasile, che sognano un giorno di diventare campioni. Stanno male, soffrono, piangono quella sera. Tra le lacrime, giurano a se stessi che faranno di tutto per riscattare personalmente il popolo brasiliano. Chissà quanti ragazzini, tra i tanti che affollano le strade delle periferie delle città brasiliane giocando a piedi nudi, avranno fatto pensieri simili. Breaking news. La nave italiana Montecristo è stata liberata al largo delle acque somale grazie a un blitz delle forze speciali inglesi concordato tra il ministro della difesa Ignazio La Russa e il suo collega britannico Liam Fox. I pirati si sono arresi e sono tutti sani e salvi, gli italiani a bordo. Piedi nudi avranno fatto pensieri simili. Questi 2 però hanno nel loro destino qualcosa di grande e di completamente diverso dagli altri. Hanno nel loro futuro il destino del calcio brasiliano. Siamo a Bauru, cittadina dello stato di San Paolo, periferia della città. Come in una qualunque cittadina brasiliana, nelle vie più povere, si sta giocando un acceso match di pelada. È una variante del calcio. Il pallone è fatto di stracci e calzini, e i piedi rigorosamente nudi. In questo match, però, c'è un ragazzino di 10 anni che il pallone lo tocca incredibilmente meglio degli altri. Anzi, a volte lo tocca solo lui, perché i suoi compagni non riescono nemmeno a toglierglielo dai piedi nudi. Tutti così fanno a gara a giocare in squadra con questo bambino perché sanno che così si vince. È il giorno dopo la disfatta mondiale e questo piccolo fenomeno vola sullo sterrato, palla al piede, con più decisione degli altri giorni, sognando di avere di fronte proprio l'Uruguay. Questo ragazzino si chiama Edson Arantes do Nascimento, nome scelto dal padre in onore di Thomas Alva Edison. Ma i suoi compagni di gioco preferiscono un nomignolo più corto, più facile da pronunciare. Tutti lo chiamano e lo chiameranno semplicemente Pelé. Pelé. Quella del 1950 è stata una tragedia incredibile per tutto il popolo brasiliano e l'entità di questo evento può essere compresa solo dai brasiliani. Dall'esterno potrebbe sembrare un'esagerazione, però ha assorbito il colpo e ci vuole molto tempo per assorbirlo. La nazionale brasiliana seppe rialzarsi e imboccare la strada per diventare una squadra formidabile. Edson Arantes do Nascimento è nato a Três Corações il 23 ottobre 1940. Il padre, João Ramos do Nascimento, noto come Dodinho, era un ex calciatore che aveva dovuto interrompere prematuramente la carriera in seguito a un infortunio al ginocchio e per questo era caduto in disgrazia dal punto di vista economico. Quando ha solo 5 anni, Edson e la sua famiglia si trasferiscono a Bauru. Qui il futuro Pelé contribuisce alle spese familiari facendo illustrascarpe e inizia a tirare i primi calci al pallone, mettendo subito in mostra un talento stupefacente. L'appellativo Pelé, affibbiatogli dai suoi compagni di gioco, nasce dalla storpiatura del nome di un suo piccolo amico che faceva il portiere, che si chiamava Bilé. Edson ne storpiava il nome chiamandolo Pelé. Da qui, fin da giovanissimo, il nome Pelé. Pelé è stato il mio soprannome fin dai primi momenti in cui mi sono trasferito a Bauru. Non ricordo nemmeno bene perché, so solo che mi irritava profondamente e mi ribellavo. Mi sembrava un nome stupido. Avevo 5 anni e la cosa mi generava frustrazione. Continuavo a gridare, il mio nome è Edson. Mio padre me l'aveva dato in omaggio a Thomas Edison e ci teneva. Così anch'io volevo essere chiamato così. Ma sapete come sono i ragazzini. Più vedevano che io mi arrabbiavo e più ripetevano Pelé, Pelé, Pelé per darmi fastidio. Ora però penso che sia stato un bene, perché è un nome breve e questo ha aiutato i miei tifosi. Crescendo, Pelé mette in mostra un talento che non può passare inosservato. Il primo ad accorgersene è naturalmente il padre. La mia prima esperienza calcistica diversa dalla strada è stata nella squadretta del quartiere, nella quale mi ha portato mio padre, poi al Bachinho e successivamente a Noreste. Qualche anno dopo, a 16 anni, fui notato da Elba de Padua, detto Tim, allenatore del Bangu di Rio de Janeiro, che mi presentò a Waldmar Dobrito, un talent scout molto quotato. Dobrito decide di portarlo a fare un provino al Santos, la squadra dell'omonima città paulista, il più importante porto dell'America Latina. Siamo nel gennaio del 1956. Santos è una bellissima cittadina che negli anni 50, nel cuore dell'estate sudamericana, ha davvero un aspetto incantevole. Pelé viene messo in campo con la squadra giovanile per una partita di prova. A bordo campo, Elba de Padu, Waldemar Dobrito e il presidente del Santos. Dobrito lo presenta così ai dirigenti del Santos. Quello che vedete sarà semplicemente il più grande calciatore del mondo. Me gusta la cena, me gustas tu. Me gusta la vecina, me gustas. Radio. Me gusta su cocina, me gustas. De la mañana. Me gusta camelar, me gustas tu. Me gusta la guitarra, me gustas tu. Me gusta el reggae, me gustas tu. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Que corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. In effetti tutti rimangono subito incantati dal talento del ragazzo. La palla rimbalza e si smorza dolcemente tra i suoi piedi. Il suo fisico robusto ed elastico e le gambe possenti gli permettono scatti, cambi di direzione e di velocità che lo rendono imprevedibile. Pelé viene subito inserito nelle giovanili, ma vi rimane ben poco. Il 7 settembre 1956, quando ha solo 15 anni, viene inserito in prima squadra. Entra nel secondo tempo di una sfida tra il Santos e il Corinthians e segna subito un gol straordinario. Al 36esimo minuto, dopo uno scambio tra i compagni Raimundinho e Tite, ricevuto il pallone in area di rigore, Pelé, circondato dagli avversari, lascia partire un gran destro e la palla si infila in rete, passando sotto il corpo del portiere del Corinthians, Zaluà. La seconda partita della sua carriera arriva due mesi più tardi, il 15 novembre 1956, quando il Santos incontra il Jabaquara e vince per 4-2. Pelé gioca e firma con un gol la sua ottima prestazione. Il Santos è una grande squadra anche con Pelé in panchina. L'allenatore che lancia la giovane perla nera si chiama Luis Alonso, detto Lula, dai tifosi. Coach del Santos dal 56 fino al 1970. Nel Santos giocano anche dei fortissimi nazionali. Prima di tutto il portiere Gilmar, per poi non dimenticare Pepe e Mauro, Coutinho e Zito. Il campionato del 1956 viene vinto dal Santos di Lula, ma Pelé gioca solo poche partite. Entra però di diritto nei titolari per il campionato paulista del 1957. Nella sua prima partita del 1957, Pelé segna 4 reti. Sarà capocannoniere del campionato con 32 gol. Scontato a questo punto sottolineare come il campionissimo brasiliano, praticamente da subito, approdi in nazionale in quel processo di ricostruzione iniziato proprio dopo la disfatta del 1950. Ricostruzione e rifondazione della nazionale, che passa attraverso una complessa elaborazione del lutto sportivo. La maglia, ad esempio, viene completamente cambiata. Quella bianca diventa il simbolo del rimosso, della tragedia da seppellire, e viene sostituita con quella oro-verde che ben conosciamo oggi. Poi pensate che per 2 anni il Brasile non disputa nemmeno una gara fino al 1952. Quando la squadra viene riformata, sono solo 2 i superstiti della disfatta. Attorno a loro tanti giovani, affamati e determinati. Allenatore della nuova nazionale è Silvio Pirillo. La prima convocazione di Pelé è datata 7 luglio 1957, all'età di 16 anni. Pelé debutta in nazionale contro l'Argentina e segna l'unico gol del Brasile, che viene sconfitto per 2-1. Pochi giorni dopo, il 10 luglio 1957, si gioca ancora il big match fra Brasile e Argentina, questa volta per la Coppa Roca, una competizione amichevole. La musica cambia e sono i Verde Oro a imporsi per 2-0. Una rete è ancora di Pelé che per la prima volta alza in cielo questa coppa. Una nazionale davvero competitiva, come vorrebbe essere quella brasiliana, decisa e pronta a tutto pur di riscattare la sconfitta mondiale del 50, non può però essere costruita solo ed esclusivamente intorno a un unico giocatore. Quel Brasile, che si appresta a disputare la Coppa del Mondo del 1958 in Svezia, in effetti, ha un altro straordinario fenomeno. Significativamente, l'assist per il primo gol di Pelé in nazionale arriva proprio dai piedi di questo secondo campione, un altro giovane astro nascente che la notte del 16 luglio del 50, mentre un paese cadeva in ginocchio, giurava a se stesso che avrebbe vendicato quella tragedia popolare. Tra poco scopriremo chi è. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi abbiamo raccontato la storia degli esordi del grande Pelé, dalla sofferenza come tifoso per il mondiale perso nel 1950 all'esordio in nazionale nel luglio del 1957 contro l'Argentina, partita in cui mette a segno il suo primo gol. La sera del disastro del Maracanã del 1950, sugli spalti del colossale stadio di Rio de Janeiro, c'è un giovanissimo calciatore che con le lacrime agli occhi promette solennemente che darà tutto se stesso pur di lavare quell'onta. Significativamente, 7 anni dopo, quando Pelé esordisce in nazionale, l'assist per il suo primo gol sarà proprio lui a servirglielo. In questo percorso quasi parallelo c'è un destino comune. Saranno loro, le due star del calcio brasiliano, in grado di riportare la nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Il nome di questo secondo, straordinario campione è Manuel Francisco dos Santos. Tutti lo conoscono però come Garrincha. Garrincha. Garrincha non è solo uno dei più grandi calciatori della storia, ma è anche un personaggio straordinario, genio e sregolatezza, luce e ombra. La sua è la storia di un reietto che si ribella al proprio destino, di un uomo sfortunato, cui il talento incredibile consente di rompere per un breve periodo le catene della propria emarginazione. In quel breve periodo Garrincha incrocia Pelé. I due daranno vita a una rivalità destinata a infiammare i cuori dei brasiliani e a rendere la nazionale brasiliana di quegli anni la più forte di tutti i tempi. Garrincha nasce nel 1933 a Pau Grande, nel distretto di Magé, quinto figlio di Amaro e Maria Carolina. Il suo nomignolo è il nome di un uccellino molto diffuso in Brasile, cui il ragazzino, per la sua fragilità, si diceva somigliasse. Il padre discendeva da una tribù di indio dell'Algoas chiamata Fulnio, mentre la madre era una mulatta originaria di Recife, nello stato di Pernambuco. Abbiamo citato solo l'anno di nascita e non il giorno perché c'è molta incertezza intorno ad esso, in quanto la sua registrazione all'anagrafe risulta piuttosto confusa. L'infanzia di Garrincha è tutt'altro che semplice. Il padre, che lavora come guardia di sicurezza nella fabbrica tessile di Pau Grande, è un alcolista e lascia la famiglia presto, morendo di cirrosi. Il giovane Garrincha cresce in una condizione quasi selvaggia, senza regole e senza percorsi educativi e scolastici strutturati. La sua formazione si ferma alla terza media, ma intanto il ragazzo ha già acquisito vizi non proprio tipicamente adolescenziali. Fuma, beve, è persino appassionato di sigari. Un'infanzia consumata troppo in fretta, insomma, bruciando le tappe e correndo a più non posso, come imparerà a fare anni dopo sulla fascia destra. A questa infanzia senza regole si aggiungono diversi difetti fisici congeniti che minano la salute e la sicurezza di sé di Garrincha. Un leggero strabismo, la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento del bacino, 6 centimetri di differenza in lunghezza tra le gambe. La sua famiglia ha un pessimo rapporto con i medici e preferisce curare tutti i mali dei figli con il cachimbo, una strana mistura che nella tradizione indio era in grado di curare ogni malattia. Quando però il ragazzo viene portato da un medico, il referto è piuttosto crudo e impietoso. Il giovane è affetto da un leggero strabismo, ha la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento del bacino, 6 cm di differenza in lunghezza tra le gambe. Il ginocchio destro affetto da varismo, mentre il sinistro da valgismo, nonostante un intervento chirurgico correttivo. Per via di tale malformazione, dovuta probabilmente alla poliomielite o alla malnutrizione, il giovane Manuel Francisco dos Santos è dunque dichiarato invalido. Egli è assolutamente sconsigliata ogni tipo di attività fisica agonistica, come il calcio. Per capire quanto si sbagliassero quei medici, facciamo un salto in avanti e raccontiamo un aneddoto. Garrincha ha 18 anni, è il 1951. È in corso una partita tra Gremio e Pau Grande, la prima squadra di Garrincha. Il giocatore schierato nel suo ruolo naturale, alla destra, nonostante disputi un buon primo tempo, viene ripetutamente schermito dagli avversari e dai tifosi. Dopo pochi minuti del secondo tempo, sullo 0-0, decide di reagire. Prende la palla nella sua metà campo e dribbla più volte e ripetutamente l'intera squadra rivale, una specie di corrida. Nessuno riesce a fermarlo. I tifosi si entusiasmano. Un giocatore avversario, irritato, lo ferma con un brutto fallo, subendo l'espulsione, e anche un tentativo di linciaggio da parte dei suoi stessi tifosi, che si sono immediatamente schierati dalla parte di Garrincha. La partita termina 6-0 per Pau Grande. A differenza di Pelé, Garrincha, più vecchio di 7 anni, esplode in età più avanzata. Non certo perché gli manchino le doti, anzi, è solo che la sua natura selvaggia, ingovernabile, un po' zingaresca, lo spinge a non dare grande importanza alla carriera da calciatore e spesso a trascurare gli allenamenti per dedicarsi alle bevute con gli amici e soprattutto alle ragazze. Per anni, quindi, mentre gioca comunque a buoni livelli, continua a lavorare come operaio in una fabbrica. Proprio gli amici, però, lo costringono a fare dei provini per diverse squadre. Il primo provino è con il Vasco da Gama, dove non viene preso perché si scorda gli scarpini a casa. Fallisce anche i successivi, con il São Cristóvão e la Fluminense. Nel 1951, però, a 19 anni, la sua vita cambia radicalmente. Manuel fa un provino con il Botafogo e, dopo aver impressionato nella squadra riserve, l'allenatore di quest'ultima decide di fare un test prima squadra versus squadre riserve con Garrincha militante in quest'ultima. Il suo diretto avversario è però lo straordinario terzino sinistro Nilton Santos, leader del Botafogo e della nuova nazionale brasiliana, uno dei terzini brasiliani più forti di tutti i tempi. Garrincha gioca alla destra, per cui viene marcato proprio da Nilton. Dopo una decina di minuti di ambientamento, inizia lo show. Garrincha umilia ripetutamente il suo avversario, lo dribbla, lo salta, gli fa tunnel la ripetizione. Nilton Santos è esterrefatto. A fine partita il terzino va dal presidente e gli dice: «Non ho mai visto nulla di simile, mai. Questo ragazzo deve giocare con noi». Inizia così la carriera professionistica di Manuel Francisco dos Santos, al secolo Mané Garrincha. Nel 1957 iniziano le qualificazioni ai campionati mondiali di calcio del 1958. Il Brasile è inserito in un girone a 3 con Venezuela e Perù. Il Venezuela però abbandona la competizione per problemi politici. Il Brasile si libera facilmente del Perù e si qualifica per la fase finale, che si gioca in Svezia. I Verde Oro sono allenati da Vicente Feola, detto El Gordo, perché oltre a un grande carisma, anche la pancia è da Guinness dei primati. In squadra ci sono giovani e consolidati campioni: Nilton Santos, Dialma Santos, Altafini, Didi, Vavà, Zito e il capitano, il portiere Gilmar. Accanto a loro, due astri emergenti: Pelé, giovanissimo, e Garrincha, che ha già 25 anni, ma la sua carriera è stata ostacolata dalle frequenti intemperanze. Sono i due giocatori più celebri, amati e forti del campionato brasiliano. Feola capisce che averli insieme è una fortuna incredibile e decide di consegnare loro la nazionale e le speranze di tutto il paese. Prima partita, Brasile-Austria, 8 giugno 1958, a Uddevalla. Pelé è acciaccato. Feola decide di tenerlo in panchina. Accanto a lui, in panca, si accomoda anche Garrincha. Motivo? È stato trovato completamente ubriaco la sera prima per le vie di Stoccolma. Il commissario tecnico è intransigente e lo esclude dai titolari. Il Brasile vince comunque 3-0. 11 giugno, Göteborg, Brasile contro Inghilterra. L'avversario dei Verdeoro è ostico. Pelé è ancora fresco di infortunio e viene inoltre ritenuto troppo giovane e inesperto per i leoni inglesi. Feola lo tiene in panchina. La frattura con Garrincha poi non si è ancora ricomposta, fuori anche lui. In Brasile i tifosi non approvano. La gara finisce 0-0. I brasiliani rischiano l'eliminazione, l'incubo si materializza. La partita, da dentro o fuori, sarà contro l'Unione Sovietica del grande portiere Lev Yashin, il ragno nero. 15 giugno 1958, vigilia di Brasile-Unione Sovietica. Un'ora prima della partita, le squadre sono in campo per il riscaldamento. Feola guarda la squadra sovietica, fatta di giocatori fisicamente imponenti, colossali. È indeciso, non sa cosa fare con Pelé e Garrincha. Si avvicinano Gilmar e Nilton Santos. Gli dicono: «Mister, la prego, Pelé e Garrincha stavolta devono giocare. Solo così ce la possiamo fare». Feola incassa senza dire niente. Dopo qualche minuto chiama a sé i due giocatori e gli dice: «Toglietevi la tuta. Oggi tocca a voi». Tutta gioia, tutta bellezza. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi abbiamo raccontato l'inizio parallelo delle carriere di Pelé e Garrincha, i due giocatori brasiliani più forti di sempre. Il Brasile ha la fortuna di averli nello stesso periodo. Le loro carriere si incrociano magicamente nel 1958, ai Mondiali di Svezia. Dopo aver saltato le prime due gare del girone, Pelé per problemi fisici e per inesperienza, Garrincha per motivi di disciplina, nel terzo e decisivo incontro il CT Feola li mette in campo insieme. Il Brasile esplode di gioia. I due beniamini di un intero popolo tenteranno di caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla al turno successivo. Alle 19 del 15 giugno 1958 viene battuto il calcio di inizio di Brasile-Unione Sovietica. L'inizio di Garrincha è devastante. Per i primi tre minuti, il suo marcatore, il terzino sinistro Kunetsov, non ci capisce nulla. Viene ubriacato di dribbling spettacolari, messo a sedere, saltato in ogni modo. I russi raddoppiano, triplicano, ma il fenomeno brasiliano li salta tutti come birilli. L'unico che non si fa ipnotizzare dalla classe di Garrincha è Lev Yashin, il ragno nero, il mitico portiere sovietico. Al terzo minuto però Garrincha semina il panico. Con la coda dell'occhio vede Pelé, che ancora non aveva toccato palla. Garrincha crossa, Pelé colpisce al volo. Yashin rimane immobile. È il primo pallone che Pelé tocca in un mondiale. Ma il pallone si stampa sul palo. Raccoglie Vavà, rete. 1-0 per il Brasile. Al 77esimo lo stesso Vavà raddoppia, ma solo Yashin impedisce che il bottino sia più congruo. Garrincha e Pelé sono i migliori in campo. I tifosi brasiliani esultano come liberati da un incubo. La loro nazionale approda ai quarti da favorita. Il popolo brasiliano però, oltre a gioire, si divide in due fazioni: Garrincha o Pelé? La sregolatezza geniale del primo o la classe composta e statuaria del secondo? Il grande commediografo brasiliano Nelson Rodriguez dice in proposito: Pelé e Garrincha sono una sintesi di puerilità e virilità, cordialità e cinismo, caratterizzante l'archetipo del brasiliano nero, meticcio, di umile estrazione sociale, due figure nelle quali il popolo poteva identificarsi e allo stesso tempo trovare un esempio di redenzione. Due figure complementari, direi. Per esistere pienamente l'una ha bisogno dell'altra. e viceversa. Invece, Armando Nogueira, uno dei più grandi giornalisti brasiliani, spiega così il loro grande dualismo. Garrincha è ritenuto il massimo rappresentante del cosiddetto futebol moleque, ovvero di uno stile calcistico incentrato sull'inventiva e sull'improvvisazione, dove gli schemi tattici sono secondari rispetto al talento naturale del calciatore, visto come la quintessenza del calcio brasiliano e la negazione di quello tipicamente europeo. Garrincha e Pelé sono come due opposti. Da un lato l'irriverenza e l'approccio squisitamente ludico, dall'altro l'efficacia e l'efficienza. Uno dionisiaco, l'altro apollineo. Uno artista e l'altro atleta. Proprio grazie a Garrincha e Pelé, il Brasile domina le restanti gare di quel mondiale. Vince 1-0 sul Galles, solo perché la sorte grazie alla squadra gallese. Derek Sullivan, difensore gallese che ha affrontato il tandem Pelé-Garrincha, racconterà così a fine gara. Erano fenomeni, capaci di pura magia. Era difficile capire in quale direzione stesse andando Garrincha per via delle sue gambe e perché era a suo agio col piede sinistro come con il destro. Quindi era in grado di tagliare verso l'interno o andare verso il fondo e inoltre possedeva un tiro tremendo. Poi il Brasile ne fa 5 alla Francia in semifinale e 5 alla Svezia di Nils Liedholm, padrona di casa. Garrincha ispira e inventa, Pelé straripante sul piano atletico conclude. Il Brasile, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Maracanã, corona il suo primo sogno mondiale grazie a due fenomeni che 8 anni prima avevano giurato di guarire quella profonda ferita. In tutto il Brasile impazza la festa. È solo l'inizio di una grande leggenda. Con Garrincha e Pelé in campo, la nazionale brasiliana non perde mai. In 40 partite giocate nell'arco di 6 anni assieme, 35 sono quelle vinte e 5 le pareggiate. Gli altri due mondiali vinti dal Brasile, però, curiosamente, portano la firma di uno solo di loro. Nel 1962, quella di Garrincha. Quelli del 1970, di Pelé. Il mondiale del 1962 giocato in Cile è proprio il mondiale di Garrincha. L'ala è al top della forma, gioca tutte le partite, viene eletto miglior giocatore del torneo e neanche il capocannoniere. Pelé si fa male alla prima partita per via di una serie di interventi assassini. I due non si amano particolarmente, ma si stimano. Così Garrincha, mentre alza la seconda Coppa del Mondo consecutiva, dedica il trionfo al grande Pelé. Un curioso episodio successivo al Mondiale 1962 rivela la vera natura di Garrincha. L'allora presidente brasiliano, dopo la prestigiosa vittoria della nazionale, decide di convocare tutti i giocatori per complimentarsi con loro personalmente e sommergerli di regali. C'è chi chiede una macchina, chi dei soldi, chi una casa. Arriva il turno di Garrincha. Allora, cosa ti piacerebbe avere? Gli chiede il presidente. Garrincha ci pensa. Poi nota un uccellino rinchiuso in una gabbia che il presidente teneva nel suo studio. Signor presidente, mi piacerebbe tanto che liberasse quell'uccellino. Questo è il mio desiderio. 8 anni dopo, nel 1970 in Messico, a trascinare il Brasile alla vittoria c'è solo Pelé. Non è solo l'età che ha messo fuori gioco Garrincha. La sua vita sregolata ne ha minato la forma fisica. Il Botafogo, con cui ha giocato più di 600 partite, segnando più di 200 gol, l'ha scaricato. Il giornalista Armando Nogueira dice di lui: ma né Garrincha visse i suoi ultimi 20 anni totalmente avulso dalla società. Affondò nell'alcolismo e restò incapace di rapportarsi con ognuno dei 14 figli che lasciò sparsi per il mondo. Bistrattato dalle compagne, sveniva davanti alle porte delle osterie, dormiva per i marciapiedi, era accolto da omosessuali e sopravviveva solamente grazie ai favori e alla filantropia del potere pubblico. Pelé è invece in piena forma. Nel Santos ha costruito una carriera straordinaria. Arriverà oltre i 1000 gol segnati. Quello messicano del 1970 è il suo quarto mondiale ed è la terza coppa che solleva al cielo. In finale, la perla nera giustizia l'Italia di Rivera e Mazzola. Col Mondiale 1970, il Brasile chiude il suo primo ciclo di trionfi. Rimarrà a digiuno fino al 94, quando batterà ancora l'Italia in finale negli Stati Uniti. Quella mitica nazionale, però, è ricordata da tutti i brasiliani come il team da sogno di Pelé e Garrincha. C'è un proverbio a Rio, proprio sui due fuoriclasse, che fotografa in maniera straordinaria il rapporto stretto e le grandi differenze tra i due. Il proverbio dice: ancora oggi, se chiedi a un vecchio brasiliano chi è Pelé, il vecchio si toglie il cappello, in segno di ammirazione e gratitudine. Ma se gli parli di Garrincha, il vecchio chiede scusa, abbassa gli occhi e piange. Olha che cosa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem e che passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balanceado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.